Se mi viene naturale, forse no, non è normale, ma io si provo ad essere me stesso agli occhi della gente intorno a me. E più ci penso, più mi viene inutile restare sopra un palco. Allora sì che ci sa stare. Allora piace dire non lo so, adesso semmai ci penso un po'. Calori lo sa bene cosa fare, solo non vuole rischiare. Pensa troppo a lavorare, che già sa dirmi quello che farà. Ha già pensato facoltà e città, che poi neanch'io mi riesco a ricordare. Lori, sei spettacolare, ma stare con te non era mica impossibile. Se fossi il più fragile, stare con te non era mica la luna, dai, che la fortuna non la porta mai. E non mi importa dei guai, ma a loro piace vivere così. Chi dice che si crede chissà chi, ma senza fare nulla di speciale si sa fare corteggiare. Dimmi te che sei di male, se non le piace la mediocrità, per non parlare dei figli di papà. Allora piace vivere soltanto e non c'è niente da spiegare. Se... You have new mail. Allora piace bere il suo caffè e con le amiche ridere di te, che forse sa già che la guarderai. Se per la strada la incontrerai, è confuso tra la gente intorno a lei. Sarà già tanto dirle come stai, è perso dentro i soliti discorsi, forse glielo ridirai. Stare con te non era mica impossibile. Stare con te, anche se fossi più fragile. Stare con te, non era mica la luna, dai, che la fortuna non la porta mai. Sì, a ripensarsi preferisco la sfortuna. Fortuna, allunga la sfortuna, oh, yeah.